sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern? Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Ma che benedici pure te, divino? Ma sai che sono emozionato. Perché sei emozionato? Che trasmetto da Milano. Vabbè, ma dai, ma chi e se da ne questo frega? Microfono ha trasmesso poco fa Barisoni, quindi sono un po' emozionato. Ma no, è questo microfono dove sono io, quello manco lo tocca. Questo lo usa il direttore della Portalo forse? No, mai, mai. Questo microfono. No, sono mai, emozionato. Mai, mai. Perché sono alla casa madre a Milano, sono emozionato. È tornato Brunetta all'attacco. Cioè, Forza Italia, dopo. Sarà guerra, cretino. Allora, Brunetta. Delinquenti, delinquenti, cretini, colpo di Stato, vedete? Colpo di Stato, cretini. Allora, la questione è molto semplice. Forza Italia doveva avere contribuito insieme a Renzi a costruire la riforma costituzionale che adesso è in discussione, per cui si menano alla Camera dei Deputati. Cosa fa? All'improvviso ha deciso, dopo la questione di Mattarella e per questioni tutte interne e forse in vista delle regionali, di rompere con Renzi. E adesso? Guerra totale. Adesso è guerra totale. Totale. È una cosa da ridere. È una cosa da ridere. Brunetta, faremo vedere i sorci verdi al PD. Altro che Aventino, ne vedranno delle belle. Vedranno i sorci verdi. Il governo e il partito di maggioranza relativa vedranno i sorci verdi. Come carico, Brunetta. Mamma mia. Però giusto, torna a fare opposizione, dai. Sì. Senti che succede con i 5 Stelle che parlano di Renzi come dittatore. Signor Fraccaro. Presidente del Consiglio Renzi non è seduto qui come un esecutore della volontà del Parlamento. È seduto qui come un dittatore che sta imponendo ai suoi tirapiedi di votare una Costituzione che sta calpestando i diritti fondamentali. Allora, Presidente del Consiglio, no, Presidente, mi lasci finire. Sì, ma lei, Presidente del Consiglio, che non si presenta colleghi mai in aula, è qui per chiedere lo scalpo dei diritti fondamentali dei cittadini italiani. Non esageriamo, non c'è nessun diritto fondamentale che viene messo in discussione. Certo, è abbastanza ridicolo, lo dico in maniera chiara, è abbastanza ridicolo che una riforma costituzionale debba essere per forza approvata entro un giorno e che si lavori di notte, mentre è assolutamente legittimo fare qualsiasi tipo di opposizione, fare quello che viene chiamato il filibustering parlamentare, cioè dire sì, i cavilli e rompere i coglioni al governo fino alla fine. È tutto legittimo. Ma cos'è che non ti piace? Che lavorino anche di notte, no, i parlamentari? No, non è che non mi piace che lavorino di notte. Scusa, ma abbiamo sempre detto lavorano banco, ma non si una lavora di notte, che, non si votano di notte queste cose. Ma una cose volta che dando il bel esempio è che Renzi li blinda tutti per approvare ma una no, riforma dai epocale. Scusami, ma tu gli dici. Forse non sarà epocale. Abbiamo un attimo esagerato. Comunque, senti però cosa è successo in aula: pezzo di merda, urlano Serba alla Boldrini. No, una vergogna. Di tutto. Una vergogna. E devo fare i complimenti però al Partito Democratico. Combinato. Io lo dico così. colleghi, per favore, colleghi, colleghi, per favore, la seduta è sospesa. Pezzo di merda! Chi ha detto pezzo di merda è Iraudo, è Sell, rivolto al Partito Democratico. E questi gridano onestà! Oh, il cazzo c'entra onestà? Sì, i grillini. Allora, grillini. Scusate, adesso mi alzo in piedi alla radio, non mi vedo che è alla radio. Che devo cazzo vuoi? Questa rissa che c'è, chi ascolta deve ringraziare questo signore qui con questi capelli che conduce da 20 anni questa trasmissione su Radio 24, no, che si chiama Lanza, aveva 10 anni. Vabbè, allora? Che stringo la mano, ma mi dia la mano, no, che lei ha mandato in Parlamento questi personaggi. Ringraziate, amici della radio, questo signore che è qua seduto. Ma io le ho mandate. Dammi la mano, ma non te la do a favore di camera. Grazie, Cruciani. No, non te la do la mano. Grazie per io li ho mandati, io li ho mandati apposta in Parlamento per fare casino. Beh, esattamente, no, per fare questo, per fare bordello fino alle 4 di notte e bloccare tutto. Ma che è esattamente per questo. Ma che è un bel ambiente. Serva alla Boldrini. Amici Beh. Tuoi sono, mamma mia, che degrado. Boldrini non sospende. Rissa sfiorata in aula, rissa sfiorata in aula. NCT contro. Vabbè ragazzi, però i personaggi del giorno non sono solo quelli della politica, eh. I personaggi del giorno sono per esempio il presidente della Lazio Lotito, il quale è stato registrato in una telefonata da un dirigente di una squadra di Ischia, se non sbaglio, di Ischia o di non so dove. Io non so più parlare con nessuno, sì, che ti registra. Sì, ti registro, però noi non dovremmo parlare da questo punto di vista. Però Lotito, presidente della Lazio, nonché uno dei grandi capi del calcio italiano, dice una cosa clamorosa, cioè se vengono in A squadre come il Carpi, il Frosinone, il Latina, che non contano un che non valgono un cazzo, a chi li vendiamo poi i diritti televisivi? Sentiamo se si sente questo passaggio, perché è una telefonata registrata, carpita. Dobbiamo cambiare. Se ne porti sul Carpi una volta lì, ma se ne porti tre squadre che valgono fra 2 anni, 3 anni, non ci avremo più la vita. Beh, stupenda questa cosa. È così che parlano poi i dirigenti tra di loro. Cioè, se me porti su, dice Lotito al capo della Serie B, se mi porti su il Carpi e altre squadre, il Frosinone Latina, non, poi alla fine non valiamo più un cazzo. A chi rivendiamo i diritti televisivi? Che c'è, Parenzo? Che c'è? Che protesti? No, no, no, protesto, non protesto. Ma è incredibile queste intercettazioni, registrazioni. Ma è un ambiente degradato, dai. Troppo degradato. Ma abbiamo con noi in collegamento da Pescara. Da Pescara, beh, chi può essere in collegamento da Pescara? Prova a indovinare. Un tuo amico, Parenzo, quello che hai trattato male in televisione. Sì, quello che hai trattato male in televisione. Ma ti pare? Sì, che l'hai trattato male. Ma adesso non vogliamo male, più tornare. L'hai trattato a pesci in faccia. Ho chiesto scusa, l'hai trattato ho detto a pesci in faccia. Scherzando. A pesci in faccia. Ma a pesci in faccia l'hai trattato. A pesci in faccia. Stavo scherzando. Dai. Antonio Razzi con noi. Buonasera, buonasera, senatore. Buonasera. Buonasera. Ma non sei più incazzato, basta con sta storia. Hai recuperato la voce, Antonio? Un po'. Sto prendendo sempre antibiotici. Speriamo che riacquisto totalmente la voce. Beh. Sento un po' meglio, specialmente quando sento a voi, forse mi fate voi ritornare la voce. Senti, caro Antonio, ma in questi giorni si parla molto di... innanzitutto diamo una notizia, no, subito. Io stavo sentendo quelle delle partite di calcio, ma finché ci... Allora se io mando il mio paese, Giuliano Teatino, in Serie A, che fa 1300 abitanti, assolutamente quello non può partecipare alla Serie A. Così dice Lotito, incazzati un po' con Lotito, va, capito? Glielo devo dire a Claudio quando lo vedo. Quando vedi Claudio dice, ma che cazzo stia a dire? Cioè non è che per esempio il Pescara, secondo questo ragionamento, non può più venire in Serie A, no? Per quello ogni volta che viene lo rimandano in Serie B. Si vede che non porta... Diglielo quando lo incrocia al tuo amico Claudio, va, digli Claudio. Pescara è Pescara. Ma digli Claudio, ma che stai... Diglielo bene, va, diglielo bene. Io dico che minchia dice, no? Certo, che minchia dice, lo dito. Quindi stai male, stasera niente arrosticini o pasta e chieci, come si chiama? Pasta e fagioli, cioè sagne e ceci e sagne e fagioli. No, niente, ma come stai? Ah, no, stai male. Perché Parenzo ha avuto la cacarella fino all'altro giorno. Sì. Beh sì, la cacarella fino all'altro giorno. È vero. Ma pure tu sei d'intestino? Questo non credo. No, è ti vero, assicuro. È vero, ti assicuro, è stato così. Sì, allora. Ho evacuato 2-3 volte al giorno, 3-4 volte al giorno. Ma non che ha mangiato di là. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no influenza, un virus, un batterio che mi ha colpito dolorosamente per giorni. No, lui ha avuto solo mal di gola, Antonio. Beh, io ti auguro una pronta guarigione anche a te. Anche certo, non c'è dubbio. Senti una cosa, ma si parla molto in questi giorni di responsabili, no? Addirittura l'altro giorno da noi un accarato, uno che dice adesso che è uno stabilizzatore, ha detto no, non mi paragonate, non a mi paragonate a razzi e a scilipoti, è un accostamento vergognoso. Tu sei stato il primo responsabile, uno dei primi, no? Queste, te lo dico da amico, questo ognuno tira l'acqua al suo mulino, capito? Cioè? Perché, cioè che ognuno si fanno i cazzi suoi. Anche loro si fanno i cazzi loro, diciamo. Scusate, ma quando io dopo ho notato una cosa. Dimmi. Che quando uno dal centro-destra va al centro-sinistra, è normale, è una cosa responsabile, perché è una cosa normale, deve aiutare il paese. Se invece dal centro-sinistra va al centro-destra, guerriglia totale, non è normale. Ma di che cavolo vogliamo parlare? Scusami Antonio, allora, però io sono incuriosito dalle pantofole che tu avevi l'altra sera a Piazza Pulita. Perché ti sei messo con quelle pantofole là? Ma io perché stavo a casa, ma no, mi sono arrivati a... Beh, erano stupende, le pantofole rosse, che cos'erano? Beh, quello me l'hanno regalato lì in Corea del Nord. Ah, erano pantofole coreane! No. Vedi... Beh. Un ricordo, cioè, un ricordo di una dittatura, di una dittatura. Ma sì, basta questa storia. No, capito, quello, però. Quello, caro Parenzo, è una vera democrazia, forse è una democrazia. No. Meglio di te, meglio di te. Le risse in Parlamento non ci sono in Corea, come dire, no? Non si muovono, tranquilli, si discute e si discute. Beh, si discute adesso per modo di... Cioè, tu dici le scene che vediamo oggi nel Parlamento italiano. No, c'è un'opposizione anche di là. Ma qua l'opposizione, sì, l'opposizione. Però è un'opposizione democraticamente, se ne parla con tranquillità, mai così esasperato come ho visto io in televisione quello che è successo ieri sera lì in aula. È indegno, alla Camera dei Deputati, insomma. In Corea queste cose non accadrebbero, dici tu? Ma mai. Beh, ti credo. In galera, addirittura due della sinistra, perché non è che magari se magari era uno di centrodestra, diciamo uno di Forza Italia, sarebbe andato a litigare con uno del PD, ma quelli si scannano tra di loro. Ma tra di loro. Allora, vabbè, che dobbiamo fare noi? Siamo qui, popolo della radio, la Zanzara. Good night, everybody. Ma che gommete? Con Antonio Razzi, senatore di Forza Italia. Vabbè, ai nostri microfoni da Pescara, senatore di Forza Italia. Antonio, sì, perché Razzi, no, Antonio Razzi, sì, ormai tu dici ha un ruolo, tu dici che non è manco più senatore. No, cioè, Antonio Razzi è una specie di format. Non è che hai bisogno di sottopancia. Antonio Razzi, va benissimo. Senti, dove vai domenica, Antonio? Prima di domenica volevo dire che. Che volevi dire? Piacere, no, mi fa piacere quando ricerco sempre veicolare, no? Quella famosa, traffico veicolare. Che non mi veniva. E grazie a quello sbaglio, diciamo, che io non riuscivo a pronunciare, Crozza la emitò e la gente di Pescara sa che io ho un ordine del giorno che è stato approvato al Senato. Vabbè. Quando riguarda il tratto Pescara-Roma, Roma che vuoi tratto Pescara? Vabbè, tratto per Pescara. Accelerare più i treni, più veloci. Più veloci, vabbè, sai quello. Comunque, gli vorrei dire a Parenzo, per fortuna che ha trovato un signore, che io mi ritengo un signore, che io perdono tutto. Perché se no? Perché se no chissà, di tutto quello che mi aveva detto in televisione, ma era uno scherzo. Aspetta. Non mi scappava una parola. No, vai, che dovevi fare? No, dice, quelle sono scherzi di cazzo, perché tu non puoi fare la cosa, a parte la faccia bella con Bonolis contro di me, perché ma sai come che contro? Ma siamo vabbè, è una discussione chiusa. Dai. Chiama, scherzi a parte, mica porta a porta. So, ma visto che siamo amici, e certo. E sapendo che tu mi conosci come sono io, perché. Ma infatti! Ma non possiamo ridiscutere ancora di questo. Eri vestito da Superman, amico mio! Eri vestito da Superman! A me mi hanno fatto mettere le dita nel naso! Non è Piazza Pulita, non è Porta a Porta, era scherzi a parte, amico mio. E quello è il contesto in cui c'era un senatore vestito da Supercazzi. Basta, ogni volta sta storia. Ma tu vai a dire, ma ai tempi di quello, questo succedeva. Ma che cazzo te ne frega di quello che è passata? acqua passata, non macina più un mulino. Senti, allora, ma diciamo avanti la verità, perché sei diventato responsabile tu? Sei diventato responsabile? Domenica, finiamo la domenica, cosa... sì, dove vai domenica? No, domenica, domenica. Allora, io parto già domani mattina a camminare perché purtroppo da Pescara non ci sono... Che fai? Che fai? Dove vai domenica? Sono dalla Domenica Live, dalla Barbara D'Urso, penso a partire dalle 15.30 in avanti... mi ospiterà una, a parlare della tua vita, diciamo la verità, a parlare, a raccontare la storia della mia vita, perché come mai sono arrivato a senatore, da dove sei partito. C'è la Razzi Story domenica a Canale 5, tutta la Razzi Story con le foto, le cose esclusive. Dico una cosa in esclusiva nella quale è probabile che si sentirà anche quella bellissima canzone che io volevo portare a Sanremo. Lo so che vogliamo cantare. Ma quindi la canterai live dalla signora D'Urso allora domenica? Ma la è canzone. Normale, è normale, lo faccio per te, parente. Senti Antonio, ma dimmi la verità, alla fine tu sei diventato responsabile, come adesso sono diventati questi qua di Scelta Civica che sono passati eccetera al Partito Democratico, perché sì, perché Di Pietro per la pensione, per il vitalizio. Vabbè. Ma queste, vabbè, questi qua però erano già al governo, questi qua di Scelta Civica. Già ce l'hanno il vitalizio, già ce l'hanno la pensione, perciò forse non lo so. Ma tu perché sei passato dall'altra parte? Perché non ce la facevi più, il rapporto con Di Pietro era finito. Io penso che quando moglie e marito si separano, vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Ma se io devo stare a una moglie, una cosa, o un partito che non ti saluta, non ti rispettano, allora uno dice ma qui è aria, meglio cambiare aria. Ma che t'ha fatto alla fine Di Pietro? Che voleva fare? T'ha fatto delle cose incredibili, manco t'ha salutato dal primo giorno che sei stato eletto, manco t'ha salutato. Beh, da quando sono stato rieletto nel 2008 non mi calcolava, sai, io diciamo può darsi che gli passerà. E invece non gli è passato. Ma magari sai come da noi in Abruzzo le ingazzature, no? Se ne viene e se ne va, capito? Come a me quando mi sono ingazzato con Parenzo. Beh, un po' diverso. Io non ho capito una cosa, ma alla fine ti ha fatto delle cose pazzesche. Che ti voleva fare? Voleva farti dimettere? Perché c'è qualcuno che ti diceva che ti devi voleva che tu ti dimettessi? No, non lui direttamente. Vabbè, però qualcuno per conto suo, dai. Qualcuno è venuto, dai. Diventerai pure un eroe uguale, quale eroe? Ma quale eroe? Diventerò proprio un vero pagliaccio. Ma perché lui voleva fare subentrare una persona vicino a lui, vicino a Di Pietro, amico suo. Sai, ognuno tira l'acqua al suo mulino. Però se io sono stato eletto con le preferenze, coi voti, col cazzo che ti dimetti, io non mi posso dimettere. Vabbè. Se uno è stato nominato e l'ha nominato, magari se glielo chiede potrebbe anche ubbidire. Poteva pure dimettersi, certo. Senti, magari... ma a proposito, tu che sei svizzera, ma ce l'hai i conti svizzera pure tu? Sì. Lista Falciani. Non è che sei nella lista. Guarda, Falciani, no? Io c'ho qualche cosa, perché quando vado in Svizzera per non chiedere i soldi a mio figlio, giusto per mettere la benzina alla macchina, mica c'ho i miliardi. Ma quanto c'hai in Svizzera? Quanto c'hai nei conti? Poche centinaia, non è che... Poche centinaia di euro? Poche centinaia di euro, non è che milioni, anzi magari tenesse qualche milione di euro, così magari vi potrei pagare pure qualche cena di lusso. C'è Briatore, c'ha 73 milioni di euro, quindi se ti dà qualche soldo, va. Beato lui, se mi desse l'11%, almeno stesse bene pure io. Senti, ma Marino sta facendo bene su questa storia della prostituta che tu hai presentato un disegno di legge? Guarda, lì Marino non sta facendo una bella cosa, una bella figura. Io penso che noi dobbiamo, lui deve cercare di fare qualche cosa per incassare, non per pagare con i soldi di Ho capito, ma non è che dipende, non è che può regolarizzare lui la prostituzione, capito? Sì, ma lui deve cercare, è chiaro che non è solo lui, deve essere lo Stato. La mia proposta di legge è ancora in vantaggio. Com'è che si chiamavano le tue cose, le assistenti, com'è che si chiamavano? OAS, operatrici? Operatrici sessuali. Ma no, da manicomio siete voi e mi ci mandate pure al manicomio oltretutto. Allora, ma io no, da manicomio è lei e tutta quanta la squadra che è fa capo a lei. We'll be right back. voglio chiedere una cosa a Parenzo subito. Ma scusa Davide, tu hai mai scoraggiato davanti alla tua compagna o alla tua fidanzata? Ma no, no. L'hai mai fatto o no? Cioè, hai mai emesso delle flatulenze davanti alla tua compagna, alla tua fidanzata? Non mi è mai capitato, no. No. Cerco di non fare, ma come non lo farei davanti ai miei genitori? Come, cioè, vado in bagno e faccio i fatti miei, chiudo. Anzi, voglio che ti confessi questo. Se giri nudo davanti in casa, davanti alla tua fidanzata, giri quello, nudo. Non posso farlo perché a casa mia ci sono le finestre che non hanno le persiane. Quindi sì, il rischio è che anche altre persone condividano le mie beltade. Allora, la cosa però è questa. Quando vado in bagno, se sì, ti dico sì, di più, visto che entri non solo nella mia casa, ma nel mio intimo del mio bagno, sì, quando io vado al gabinetto, sì, anche a casa di altri, a differenza sì, tua, non solo alzo la tavoletta, sì, ma quello anch'io cerco accendo di farlo, anche l'acqua, sì, in modo che non sentano i miei rumori, cioè faccio scorrere l'acqua del perché, lavandino. Scusa, ma sei malato, sei? Cioè, apri l'acqua del lavandino, chiedo, così non sentono il rumore della piscia, un rumore. Esatto. Ah, tu, per non far sentire i rumori, le scoreggi, le cagate. Le così, cose normali che si fanno nei gabinetti. Io, ah, questa è malattia, per cioè, educazione, aprila. Quando vado a una cena a casa di qualcuno, magari, ah, no? Ma questa è una malattia. Ah, dai, perché invece su, lo strano. Ma la cosa pazzesca è che lo strano sono io, dai, capito? Su. Cioè, la cosa è incredibile. No, perché che molti rapporti, secondo una famosa ricerca inglese, le grandi inchieste della Zanzara, sì, molti rapporti. Infatti, si auspicano di fare grandi inchieste. Molti vedo rapporti che si sono interrotti. Lei, molti rapporti segue, si sono interrotti non appena uno dei partner si è lasciato andare alla flatulenza. Beh, questo è vero, però, dai. Sì, devo dire la verità, che anche a me è successo. Adesso devo fare una confessione. No, ma io anche invece a me no, è successo io non ho mai di scoreggiare le poche volte che sono stato fidanzato. Ho capito che era finita quando mi potevo permettermi di scoreggiare così liberamente. Ma perché devi dire ridendo queste cose, anche, ho scoreggiato, una puzza tremenda, una cosa pazzesca. Ah, ecco, quando si arriva a scoreggiare davanti alla propria sì, partner, io o davanti al proprio fidanzato, se uno è donna, ma di solito lo fanno gli uomini, le donne no, però può capitare. Ecco, è finita, a quel punto è finita, è sicuro che è finita. Io chiedo scusa, oggi è venerdì, sono le 19:20 sì, e il presidente Squinzi sta tornando a casa e sì, dice, oh, vediamo un attimo, fine settimana, la radio della Confindustria, la mia radio, di che cosa parla? Sac, gira e sente le confessioni di Cruciani relative alle sue flatulenze. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. A me fa cagare un mondo così. Ha ragione Di Nolfi. Mi fa cagare. Ma non è vero, non è vero. Bisogna confessare queste cose. Qualche volta è vero, qualche volta ho emesso flatulenze davanti ai miei partner. Ti prego. No, vabbè, no, ti prego, basta, ma basta, che schifo, basta. Scusa, Lutwak vabbè, e Palermo. A Palermo hanno i vigili invisibili. Ah, roba incredibile. E a Palermo hanno una cosa straordinaria che non hanno in Giappone, non hanno in nessuna parte del mondo, non a Silicon Valley: i vigili trasparenti, i vigili invisibili. Perché ho fatto un giorno e mezzo a Palermo, in gorghi di traffico non finire, e evidentemente i vigili erano lì perché sono brava gente, sono lì a lavorare, però sono invisibili. Io non so come li hanno sviluppati, però so che per uscire da Palermo ieri ci ho messo 45 minuti perché agli ingorghi non c'è né un semaforo né un vigile. Lutwak negli ingorghi di Palermo, incredibile. Poi dice anche i Vucum Pra vicino alla polizia che non fa niente. Questo è vero, molte città italiane nessuno fa un cazzo con i Vucum Pra che violano la legge, non c'è niente da fare, dai, violano la legge e nessuno fa un cazzo, dai. A Venezia i Vucum Pra che vendono borse illegali, illegalmente, e i vigili a due passi che chiacchierano fra di loro. Questa è un'osservazione turistica di Venezia. Poi sempre Lutwak che dice una cosa. Allora, devi sapere che noi abbiamo il presidente della Federcalcio, il nostro amato Tavecchio, il signor Tavecchio, cui abbiamo fatto un meraviglioso scherzo con Emoji ormai qualche mese fa. Signor Tavecchio, il quale uno dovrebbe dimettersi un secondo dopo se fosse in un altro paese, un secondo dopo. Il quale si fa comprare i libri che lui ha scritto sia dalla Lega Nazionale Dilettanti, dove prima operava, ma anche dalla Federcalcio. Cioè, diverse migliaia di copie, copie comprate, fatte comprare. Io voglio mettermi nella testa. Poi non risponde quando uno gli fa la domanda, capito? Sì, non risponde, gli domandano questo, no, non, ci su scusi, questo non rispondo. Professor Tavecchio, ma perché lei ha fatto comprare dalla società il libro i suoi da lei libri? Scritto, che non è la Divina Commedia, insomma, non è la questo Divina non Commedia. Credo. Ecco, perché ha fatto comprare con i soldi della Federcalcio, con i soldi in parte nostri, libri da lei scritti che, insomma, in librerie evidentemente non riscuotevano questo grande successo. E ci facciamo pigliare per il culo pure da Lutwak su questo. Senti un po'. Io sono anch'io un autore di un libretto o due, sì, e quindi ho la grande solidarietà per questo autore che voi state attaccando. Io vedo che è un splendido libro, sarà a livello della Divina Commedia e così via. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Alla Camera le opposizioni per protesta contro la seduta Fiume non partecipano al voto e si appellano a Mattarella, in aula solo la maggioranza. Renzi, vogliono solo bloccare il governo, ascoltiamo tutti ma non mi faccio ricattare al referendum, vedremo con chi stanno gli italiani, Civati e Fassina non votano. Conferenza stampa congiunta di Forza Italia, SEL, Lega e Fratelli d'Italia, Brunetta, vedrete i sorci verdi, 5 Stelle, riforme pericolose per la democrazia. L'Italia per l'Istat, fine della recessione ma crescita ferma, Francia in stagnazione, Germania in ripresa, meglio delle attese, reazioni positive dei mercati. L'ISIS avanza in Libia, conquista la città di Sirte, appello dell'ambasciata italiana, lasciate il paese, non ci sono le condizioni di sicurezza. Sulla morte della neonata di Catania ci sono indagati, ma è un atto dovuto, dice la procura, la madre Nicole morta per un errore umano. Antonio Razzi, a te ti è capitato di... Non c'è, è chiuso, che ha fatto? Se ne è it. L'altro giorno è intervenuto un ascoltatore che ha parlato di triplette. Le famose triplette. E non riguarda il calcio. No, le triplette sono tre volte durante il giorno. Senti, ma con la stessa sempre? Così diceva, non so, no, con la stessa. Un altro che mi insultava dicendo tua sorella, eccetera, eccetera. Sentiamo. Cosa sto parlando? Di che allora, parli? Di cosa parli? Tuo amico, fammi parlare che ti spiego. Ti faccio gli schemini. Fai gli schemini. Così ti sfogli un po'. Così stasera non picchi tua moglie. Vai. Gaeta 2015. No, così, io ne ho fatte tre. Così stasera non picchi. Mia moglie e tua sorella pure. Ne ho fatte tre. Hai fatto la triss. Fammi parlare. Hai fatto la tripletta. Con gli schemini. Hai fatto la tripletta. Allora, Spiegami la tripletta che hai fatto con tua moglie. Spiegami la tripletta che hai fatto. Sì, due a pomeriggio con mia moglie e una ieri sera con tua sorella. Te lo spiego di nuovo. Quello è impossibile. Dimmi la tripletta che hai fatto. Allora fammi parlare, coglione, fammi parlare. Oh, lo sai che cosa mi è venuto in mente quando ho sentito questo ascoltatore? Beh, un mitico personaggio abruzzese che si chiama Semproni. Che in televisione, una volta, in una televisione privata di Pescara, ha parlato della tripletta, cioè ragionava dei giocatori di calcio, però diceva che le donne sono più forti sessualmente rispetto agli uomini, per un motivo che lui ci spiega in un accento, dialetto abruzzese, però facilmente comprensibile. Immagino che sentiremo questo ora, questo contributo audio. Si vede una bestia di quelle ti si socchi come l'umidolo, hai presente l'umidolo qua a re? Sì. La femmina ti fa cucì. Ve l'ho detto 100 volte. La donna sessualmente è 100 volte più forte dell'uomo. L'uomo può fare lo zimbel, New York se fa una triplette, lunedì, martedì altra tripletta, mercoledì vai, ti concedo un'altra tripletta. Giovedì stacca le flemme all'ospedale, capite? E venerdì, che volete fare? E venerdì autogol. Beh ragazzi, spettacolare. Antonio, te lo ricordi Antonio? Come no, bravissimo. Mi chiedo perché nella trasmissione di Barisoni gli audio sono un po' diversi. Senti una cosa, ma tu è un po' invidioso Parenzo. Ma tu lo fai qualche ogni tanto l'hai fatta qualche tripletta, sì. Ma figurati. Una volta. Ma chi ce la fa? Ma come no? Guarda, una volta. Quando iniziavi? Una volta, no? Prima di sposare, sì. Certo, prima di sposare che facevi? Allora si faceva, ma oggi. Ma al giorno quante ne facevi prima di sposare? Oggi stiamo in pensione, se ne poteva fare le triplette tranquillamente. Tranquillamente facevi le triplette, ma però non tutti i giorni, se no ha ragione Sembrò, dice no, dopo vitto l'ospedale a venerdì. No, beh, certo, ma tu il massimo che hai fatto durante il giorno, quanto è stato il massimo che ti ricordi? Durante un giorno intero? dai, c'è la puttana. Quando a 20 anni allora se ne fai tranquille 5, 4, 5. Una volta hai raggiunto 5 volte al giorno? Ma sì, ma allora quando c'hai 20 anni, modo capra vai. No, vabbè, d'accordo, ma tu il massimo che hai fatto in un giorno, perché non è possibile che ne hai fatte 5. Ma perché? Non no, razzi? Ma a 20 anni, dopo quando che ti trovi, che allora si parla di tanti anni fa, negli anni 70. Beh, certo, tanti anni fa, non c'è dubbio, 60, non c'è dubbio. Mica allora c'era tutta un'altra cosa. Oggi, sì, adesso oggi manco sempre... col crick, se alza. No, beh, col crick. Manco col crick. Non esageriamo, dai, non esageriamo. Manco col crick. No, no, ma dici, adesso, il massimo che hai fatto al giorno quanto è stato? Una volta sei riuscito a farne 5, 6, quante ne hai fatte? Ma sicuro, allora quando sei 20 anni tutti la fanno. Ma 5 al giorno sono tante, oh, 5 al giorno, Antò. Ma lo so, ma non perché lo puoi fare tutti i giorni, sennò dopo crepi subito. Ho capito, però 5 sono veramente tante. Sono gli anni belli, per gli anni oggi forse non ci si pensa nemmeno, oggi non c'è nemmeno voglia di farlo. Ando, non te lo fai sicuro, manca tu e manca parenti. No, 5 al giorno sempre, no. Io ma che io vi siete dimenticato che ci sono le donne. Le donne sono belle, le donne bisogna conquistarle. Ma adesso c'è la rete, c'è internet. Con la gentilezza. Vabbè, ma quello che c'entra? Parenze che fa? Come lo conquista? Parenze nella rete, in internet. A internet, nella rete. Nella rete. Tu navica. Senti, ma tu ogni tanto qualche pillolina di Viagra la prendi? Sicuro, dai. No, io mai. Perché? Che c'è? Io non lo so, manco lo conosco. Ma non sai che... Ma è la stessa cosa quando mi hanno detto che abbiamo fatto lì alla Camera dei Deputati i controlli per la... per sì. La droga, chi è drogato, che cosa? Ah, io ci vado. Io non lo so neanche che è questa droga. Cioè. Fatemela vedere. No, ma che c'è della droga col Viagra, però? No, no, sto dicendo la stessa cosa. Sì, col sì. Viagra, io non lo so. Il Viagra pare che uno può fare delle cose pazzesche col Viagra. Non lo so, io non l'ho mai provato, non lo devo provare. Beh, certo. Tanto io sono con mia moglie e basta. Beh, cioè, vabbè, pure con la moglie può servire, però. Vabbè, Antò. No. Auguri, ci sentiamo presto, dai, ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao, ragazzo. Serata, ciao, ciao. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao, vecchio mio, ciao. Stinghi Stang. Io non ho la televisione, sono andata a cliccare per vedere voi due come siete. Brutti, bruttini, sì, veramente. Beh, cara signora, può darsi pure che noi siamo brutti, ma sicuramente è brutta la telefonata. Per carità, registrata magari in maniera fraudolenta, non lo so, di Lotito, il presidente della Lazio, che pure è la mia squadra peraltro, ma in questo caso me ne fotto totalmente, il quale in questa telefonata dice ma qui alla fine anche per le squadre piccole, cioè non è possibile un sistema in cui squadre piccole non possono magari permettersi di sognare di andare a giocare in Serie A. C'è Lotito che dice il Carpi, il Frosinone, il Latina, se vengono tutte in Serie A, lo dice riferendo di una conversazione con il capo della Serie B di calcio, se vengono tutte queste squadre in Serie A non valiamo più un cazzo. Magari sarà anche vero, perché sono magari squadre con un piccolo bacino, no? Con un piccolo bacino di quelli che Lotito chiama i clienti. Però dai, ragazzi, su, ma non in questo modo. Allora fate per campionato da soli, no? Cioè, uno fa il campionato con 10 squadre, senza promozioni, senza retrocessioni, senza sì, competizione, via. Adesso a me non è che sta nel simpatico Lotito, non me ne frega nulla, ne so neanche cos'è la Lazio. Però non è che si può criminalizzare uno perché in una conversazione privata, esprime giudizi anche durissimi, perché noi tutti nelle nostre conversazioni private magari esprimiamo giudizi terribili nei confronti dei nostri colleghi. Sentiamo intanto Lotito, dei nostri amici. Dobbiamo cambiare, se ne porti sul Carpi, una possa lì, ma se ne porti le squadre che guardano c***o, fra 2 anni, 3 anni, non ci avremo più da dire. Allora, the sky grew dark, I put the pedal down, to make some time. Beh, grandi materiali oggi per Italia, paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Allora, l'amico Mario Giordano oggi ci informa di una cosa un po' speciale, un Marione, po' particolare. Direttore io direi 24. Vergognosa. In Sicilia i vitalizi si tramandano ai figli. Per esempio, la regione paga da 40 anni una pensione da 2.000 euro al mese a una signora che non ha mai messo piede all'Assemblea regionale siciliana, che è la figlia di un ex deputato. Cioè, non solo c'è la reversibilità alla moglie, al marito, quello che è, ma c'è anche la reversibilità per i figli, che magari non fanno un cazzo, devono essere indigenti e restano indigenti per incassare una pensione di 2.000, 3.000, 4.000, in alcuni casi anche di 5.900 euro al mese. Cioè, le pensioni cosiddetti vitalizi si tramandano non solo alle mogli, cosa per me comunque vergognosa, ma anche ai figli. Anche ai figli. Sono 116 che oggi ancora incassano una pensione di questo tipo che gli è stata tramandata dal padre morto, dalla madre morta. Questa Italia che dà queste immagini di sete è un'Italia di merda. Bene, andiamo a Milano, Christian. Andiamo a Milano, siamo a vai, Milano. Vai, Christian. Andiamo a Milano, siamo a Milano. Ultimo, sì, ciao Cruciani. Dimmi, ciao, dimmi. Ciao caro, ciao. Ma qui in questi giorni si è tanto parlato dell'Expo, di cosa farne di questa area di... No, veramente non se ne è parlato per niente. Però comunque noi non abbiamo parlato perché non ce ne frega un cazzo. Fare una bella rubrica su Expo, sì, è vero. Dai, esatto, dimmi. E soprattutto si è parlato anche di prostituzione. Allora, visto che è un parco tematico, un parco di intrattenimento che continua a esserlo, cioè che diventi almeno il più grande bordello. Ah, tu dici dopo, dopo. Sì, dopo. Dove... Cioè, dopo l'Expo trasformiamo l'area dell'Expo in un grande bordello, non è una brutta idea. Si fa dire, ma non è una brutta idea, ha ragione Christian, per rendere utile quella zona. Dopo, certo, c'è sempre. Ma lei fa uso in genere di questi di queste lavoratrici? No, io faccio uso di quello che porta lavoro, fa lavorare le persone. No, ma lei usufruisce di questi servizi in genere o no? No, se ci fosse un'area pink, un'area red a Milano, pink, sarei interessato pink. Sicuramente la frequenterei, perché no? Senti, bambini andavano sotto nei bordelli, si ritrovavano, un luogo di appuntamenti, casa d'appuntamenti, si ritrovavano intellettuali. Ma guarda che la gente... Con i bambini che giocano con la gente è molto più avanti, la gente è molto più avanti dei politici. Cioè, la gente vorrebbe la legalizzazione dei bordelli, la legalizzazione della prostituzione, non gliene frega niente dei politici, dei balbetti della politica. Il Partito Democratico dovrebbe essere uno al centro della questione dei diritti, della legalizzazione di tutto. A Roma non sa che fare, pure Renzi ha detto non è una questione all'ordine del giorno questa cosa con la prostituzione. Che vuole fare? Lasciare le cose così come stanno? Che vuole fare? Ci dica pure su questo, no? Riccardo da Bologna, vai Riccardo. Buonasera. Dimmi Riccardo, vai. Voglio parlare con il dottor Parenza, visto che da quanto posso intendere ama moltissimo il Movimento 5 Stelle. Sono qua, certo. Beh, dipende, se non mi sono simpatizzato. Ieri sera mi pareva che dicesse l'onestà, perché mi pare evidente che ci sia qualche indagato, condannato, seduto nelle sedi del Parlamento che stia sta facendo... la riforma della Costituzione. Beh, abbastanza pochi, dai, su, a parte Berlusconi che ha contribuito, fino all'altro giorno ha contribuito alla stessa riforma che adesso ha persa. Mi pare che il signor Renzi possa tranquillamente, qualcuno dice che è un ducetto, mi sembra abbastanza chiaro. Addirittura. Sì, ma secondo lei... Usa il diritto parlamentare, dai, non diciamo stupidaggini, su, forza, basta. Usa le regole del Parlamento, dai. A te piacciono i 5 Stelle, ti piacciono i 5 Stelle, e tieni i 5 Stelle. Va bene. Stai calmo un attimo. Sono calmissimo io, per carità. Ecco, allora, stai sereno, come dice Matteo. Allora, serenissimo. Questa, come la Repubblica Veneta, visto che sei di Padova, ascolta... Dopodiché, se l'Italicum è una sorta di Porcellum, lei era d'accordo col Porcellum o no? Sì o ma no? Ma cosa vuol dire? Ho detto mille volte che questa legge elettorale comunque allora così come fa schifo, quindi che vuoi? Allora che è un pasticcio, allora un po' eletti in un modo, un po' in un altro. Si sta semplicemente facendo un'opposizione, secondo me, in maniera lecita, perché ieri a Schiaffoni l'hanno fatto Sel, ieri a Schiaffoni l'hanno fatto Sel. Ma quale Schiaffoni? L'hanno fatto Sel con il PD e lei, quando hanno fatto così quelli del Movimento 5 Stelle che sono andati al banco del governo. Hanno fatto una gazzarra inumana e totalmente inutile. Allora, una gazzarra. Può anche essere che lei la possa vedere così. Comunque, se a voi piace della gente pagata per fare gazzarra, va benissimo, figuriamoci. Democrazia. mi pare che sia semplicemente l'unica opposizione di questo paese. L'unica opposizione. Non c'è nessuna gazzarra, queste cose qua succedono in tutti i parlamenti. Queste cose qui accadono in tutti i parlamenti. Se si approvano le cose, se si vogliono approvare le cose di fretta e di notte, di fretta e di notte, c'è qualcuno che si fa girare i coglioni. Questo non vi seguo. Di notte fino alle 4 del mattino i nostri deputati hanno lavorato, come è giusto, fino alle 4 del mattino. E sono, allora, li criticate perché non vanno, li criticate perché stanno lì fino alle 4 del mattino. Ricordi, ma che volete? Parenzo, si ricordi una cosa sola, poi lei può votare per tutti e due, potete votare per chi volete. La prossima, se questa volta Renzi vi pare che abbia un comportamento corretto, tenete presente che con la nuova legge elettorale potrebbe venire o Tsipras o Alba Dorata, ad esempio, a fare presidente del Consiglio in un parlamento bloccato. Vabbè, adesso non c'entra niente, dai. Allora, ragazzi, questa cosa qui che il PD piglia tutto. Fermo un attimo. Questa storia che il PD piglia tutto con la nuova legge elettorale, eccetera, è una stronzata. Perché piglia tutto chi vince le elezioni. Cioè, voi date per scontato che il PD vincerà sempre le elezioni per i prossimi 40 anni. Beh, allora ponetemi una domanda se è così. Cioè, le elezioni le possono vincere tutti al primo turno, al secondo turno, come è congegnata questa legge elettorale. Per cui non è questione Renzi vincerà sempre. Renzi vincerà sempre se non ci sarà un altro in grado di batterlo. Punto e basta. Mauro da Teramo. Vai, esatto. Mauro. Sì, pronto. Dimmi. Sì, salve, io chiamo da Teramo, sono abruzzese. Sì. La seguo sempre, la stimo molto, lei è bravissimo, però le devo chiedere per favore, per carità, per gentilezza, per pietà, non mandi più quel buffone di Razzi in onda. Perché? Perché è la vergogna degli abruzzesi. Addirittura è la vergogna. È evidente che lei lo prende per il culo e lui neanche se ne accorge. Ma perché la vergogna degli abruzzesi? Mi spieghi? No, perché? No, sono molto amici loro, si frequentano anche fuori dalla radio, si vedono. Ma non credo. Beh, sì, assolutamente sì. Ma qual è il problema? Non ho capito. Sono andato a cena con Razzi. Ma qual è il problema? Scusa. Ma qual è il problema? Che è impresentabile, è vergognoso, è un aspetto della politica più odiosa che non è il caso proprio di sentirlo. Vabbè, a lei sta sulle palle, non va a votare Forza Italia quando si andrà a votare in Abruzzo, punto e basta. Perché non bisogna farlo parlare alla radio? Ma di che sta parlando? Perché non... Cioè lei si vergogna di essere abruzzese quando sente Razzi? No, mi vergogno di sentire Razzi che parla... Come che lui non è un eletto, è un nominato. Come però tutti, peraltro, come tutti per come adesso. Tutti, come tutti. Infatti. Vabbè, ho capito, Mauro, grazie. Ciao. Allora, voglio provare a chiamare Mariano Rabino. Sai chi è Mariano Rabino? È un deputato di Scelta Civica, il quale è nell'occhio del ciclone perché in una registrazione, non si sa come, anche qui siamo sempre nel campo della registrazione, rubata forse in Parlamento. Beh, insomma, ha offerto praticamente ad ex dei 5 Stelle di far parte di un gruppo comune, in questo modo di ottenere più rimborsi, più soldi. Almeno così abbiamo interpretato questa cosa. Ottenere più soldi al gruppo, però non alle persone. Sì. La cosa è finita sul blog di Grillo, che ha titolato 50.000 euro per loro possono bastare. Il dialogo tra Mucci, ex Movimento 5 Stelle, e il deputato Rabino. In questo modo poi Grillo ha lanciato la roba su Twitter, no? Sentiamo un po'. Chiamatemelo, dai. Pronto? Rabino? Sì. Sono Cruciani, come va? E Parenzo, ciao. Carissimo. Come la va? Andiamo bene, mi sto di nuovo leccando le ferite, anche se cosa devo fare? Beh, scusa, però, allora, caro Rabino. Se vado in televisione devo fare attenzione alle pause pubblicità. Se parlo in aula devo fare attenzione a chi mi registra da dietro, di fianco, di sotto le conversazioni, ragazzi. Scusa, però... Io devo prendere una guardia del corpo. Ma di chi è questa telefonata? Chi l'ha registrata sta telefonata? Ma infatti anche questo, ma veramente c'è gente che non sa fare il giornalismo, non è una telefonata. Cos'è? È una conversazione carpita con un telefonino in modo artigianale tra gli scranni del Parlamento. Ma ti rendi conto? Sì, vabbè, uno può discutere fino all'infinito. Ma io posso discutere con una persona. Violazione dell'articolo 15 della Costituzione. Segretezza, riservatezza, libertà di espressione e di comunicazione con le persone. Quindi reato. Sì. Il deputato che pare sia già stato individuato. Io ho chiesto all'ufficio chi è stato? Di precedenza. Chi è stato? Non lo posso dire ancora. No, diciamo, è uno dei 5 Stelle, sicuro. È uno dei 5 Stelle, ovvio, che c'è la morte con la ex 5 Stelle Maramucci, evidente. Questo ha registrato la cosa, reato, pagherà, gli darà milioni di euro che io darò in beneficenza. Milioni di euro? Ma io credo di sì. Poi l'ha dato al blog di 5 Stelle milioni di euro che io darò in beneficenza. La conversazione che hai sostenuto è vera o è stata alterata? Perché anche questo è interessante allora, da capire. Sicuramente, come vedete, è di cattiva qualità e non si capisce quasi nulla. Io non nascondo, anzi ribadisco quello che ho detto. A una collega che fa parte di un gruppo di ex 5 Stelle fuoriusciti che si chiama Alternativa Libera, io ho spiegato che se un giorno dovesse esserci un'integrazione tra noi e loro, si creerebbero economie di scala costo e scopo, noi acquisiremo le risorse che a loro vanno comunque, io ho detto 50.000 euro sono troppi, sono 41.000. Vabbè, ho capito, però la sostanza, al di là di questo, scusa, la sostanza è che tu dicevi per spronare questa persona, evidentemente, a andare nel vostro gruppo, che un gruppo più ampio... a stare nel nostro gruppo, questo non l'ho detto. Beh, come no, scusa. Voi? No. Ho detto, se c'è un noi siamo un gruppo, se voi vi aggiungete, che vuol dire se voi vi aggiungete? Se voi vi aggiungete, nel senso che facciamo un nuovo gruppo parlamentare. Appunto, vabbè, ho capito. Più grande, guadagnerete più, il gruppo avrà più soldi, ovvio, questo è dici. Ovvio, esattamente, come il gruppo di 5 Stelle, che era di 115. Beh, ma questo è un po' un mercato delle vacche, Rabino, ma perché? Ma perché un po' un mercato delle vacche? Stai dicendo a qualcuno per far spendere di più il Parlamento? Per far spendere di più? Sì, in questo modo, come no? No, non si spende di più, ti spiego. Sì, ma se uno fa un gruppo più grande ha più risorse a disposizione, questo è il punto. No. Ha solo più autonomia organizzativa. Se tu finisci nel gruppo misto, arrivi con i tuoi 4.152 pro quota, ma finiscono in un mare magnum, per cui tu non hai un'autonomia, come dire, organizzativa. Sì, ma loro avrebbero avuto. Loro avrebbero avuto. Non aumenti la spesa, non aumenti la spesa, perché loro, andandosene via da 5 Stelle, tanto per essere chiari, ecco perché 5 Stelle gli rode, perché andandosene via in 10, 9 più artigli, Gli portano hanno via risorse via economiche. 41.250 euro al mese. Giuppe, ma se vuoi. Ma lo scuola, perché gliel'hai chiesto allora? Ci sarà un motivo, perché gliel'hai chiesto? No, gliel'ha spiegato. No, perché io gliel'ho spiegato il meccanismo, ma secondo me lei lo sapeva. Il tema è chi è questo che ha registrato tutto. A questo punto si può dire, perché il tema è questi, allora, l'avete già individuato, il grillino che ha registrato non lo tutto. So, no, non lo posso dire. No, dillo, dai, però sai chi è, almeno. Non lo so. Ma no, mi hai detto, allora, va bene, non dire il nome, ma ci confermi che lo avete individuato. Perché io gli chiedo dei danni che non finisce più. Benissimo. Perché mi ha fatto passare per corruttore mentre stavo spiegando a una collega come funzionano i gruppi parlamentari. Però è un grillino maschio che avete già individuato, non ci dire il nome, ma sappiamo che l'identikit è grillino maschio individuato. Questo te lo concedo, pare di sì. Stavamo parlando di convergenze. Io, tra l'altro, considerate che questi sono già usciti dal gruppo, cioè convergenza tra scelta civica ed ex 5 Stelle. Io non corrompevo nessuno, cioè non è che lavoravo per aumentare la maggioranza. Questi sono un gruppo di opposizione che però non sta più con i 5 Stelle. Scusa, Rabino, allora, perché parlavate di soldi allora? Spiegami perché io te lo spiego, perché lei mi ha chiesto come funziona la possibilità di avere un'autonomia organizzativa. Io gli ho spiegato che un meccanismo è questo. Io gli credo, ma perché hai parlato di metodi da Gestapo? Scusa, Giuseppe, se io mi avvicino mentre tu e Parenzo parlate e vi registro con un telefonino, ti mando a fare il culo. Vi faccio dire che state organizzando un omicidio contro il Papa. Scusami, Giuseppe. Ma questo va arrestato, secondo te, addirittura? Ma io adesso non conosco, perché se è un deputato ci avrà la. Se non fosse un deputato andrebbe. Se non fosse un deputato andrebbe. Come suo reato. Come suo reato. Soprattutto perché ha preso poi questa roba e l'ha fatta diventare oggetto di diffamazione. Beh, certo, se se la teneva per sé non succedeva nulla. Certo. Grazie, ciao. Buon lavoro a ciao, tutti. Ciao. Comunque questo rabbino. Ecco, io vorrei precisare, perché poi gli antisemiti sono sempre uguali. Che è successo? Il signor rabbino non è ebreo. No, no, adesso che bisogno c'è di specificare. No, è giusto specificare, quello se la si collega alla radio, accende e sente un signore che si chiama Rabino che parla di soldi. Ma che dice, ecco, dice, no, perché poi ti conosco i soldi che chiamano. Ma cioè, che dici? Allora, Rabbi, preciso che il signor Rabino è il cognome di un deputato di scelta civica che non è ebreo. No, questo lo dico. Se no, poi dopo. Ma non c'entra niente. Vabbè, comunque, questo antisemiti telefono. Ma non c'entra nulla, dai, non dire stronzate. No. Questo Rabino fu protagonista di un'altra vicenda. Questo deputato di scelta civica, dai. Sì, ma sentiamo. Una signora mi ha chiesto perché quando vai a Roma non vuoi più tornare a casa. Io gli ho detto così: non sono i privilegi, sono la gnocca e il tempo. Mi sbaglio? Non mi sbaglio, secondo me. I privilegi a Roma sono la gnocca e il tempo. Beh, è sincero almeno. Guarda, io in 5 anni a Torino, in consiglio regionale, non ho visto. Sì. Non ho visto la gnocca. Ero nel PD io. Non ho visto la gnocca che ho visto qui in 6 mesi, in 5 anni. Comunque ragazzi, ha detto prima, stavamo parlando di convergenze, quando prospetta a questi dei 5 Stelle 50.000 euro in più, dai su, ma non diciamo stronzate, dai, cercava di portarli a formare un gruppo più ampio, perché formando un gruppo più ampio aumentano le risorse, lui dice di no, che le risorse restano le stesse, bah. Oscar Milano, Oscar, vai. Non siamo noi gente normale, eh? A chi ce la vuole raccontare? Pronto? Vai Oscar, dimmi. Con chi parla? Oh, belli, meno male che ti sei deciso, visto che vai parlare tutti quanti. Senti, diamo un po' la... No, Oscar, stai tranquillo. Leva questo viva voce. Leva questo viva voce del cazzo che hai. Hai ragione. Ecco, no. Mi senti, l'ho tolto, grazie. Dimmi. Senti, niente, io volevo un attimino rimbeccare un po' il tuo comportamento ieri sull'argomento tassisti. Perché vedevo che avevi un certo orgoglio, certo, un certo gusto nel voler tirar fuori dal cilindro che per forza quei manifesti, quelle elezioni. Aspetta, fermi un attimo, torno con te tra un secondo. Sono tempi duri, non tanto per noi. Sì. Non siete seri per niente. Allora, eravamo con Oscar Milano, vai Oscar. Oh, ciao, grazie a tutti, un saluto a tutta la categoria. Niente, allora io volevo intervenire. Quale categoria? I tassisti? I tassisti. Allora, che vuoi, Oscar? Tu avevi un senso di godimento ieri nel voler tirare fuori così la verità, secondo te, che quei manifesti, quelle lenzuola con gli insulti, fosse stato per forza un tassista o un gruppo di tassisti. No, vabbè, ma io non ho nessun godimento, Oscar. Non ho nessun godimento. Ma certo impegno questo pensiero. Allora, aspetta un attimo. Perché allora, intanto noi siamo persone serie. Prima, abbiamo certificati penali puliti per esercitare questa professione. Vabbè, questo nessuno lo mette in dubbio. Poi? Aspetta un attimo. Poi non abbiamo quel senso lì così volgare e così basso di attaccare le categorie. Fino ad oggi abbiamo dimostrato di avere ancora un certo senso del pudore e dell'educazione. Forse abbiamo sbagliato strategia. Infatti io proclamo da oggi l'apertura del movimento dei martelli, perché siamo stanchi di fare i chiodi, e proclamo all'opinione pubblica, sì, e chiedo a tutta la categoria di contattarmi. Sono un tassista che lavora a Radio Taxi 6969, sì. Quali sarebbero le mie strategie? E tiro anche in causa il famoso fotografo Oliviero Toscani, cioè? Che per conto mio, una già di quelle proteste che dovrebbe sensibilizzare la gente e le istituzioni, io porterei un nuovo fresco per quanti siamo, 5.400 tassisti, col numero di licenze, lo poserei in modo educato e gentile in Piazza della Scala, e lo farei per 7 giorni consecutivi. Questo è il mio modo di fare dimostranze. Però vabbè, Oscar, al di là della tua voglia di visibilità o di dire la tua, per carità, va bene tutto. Vabbè Oscar, il punto fondamentale è che io... Oh, stai calmo un attimo. Oh, stai calmo un attimo. Allora, io non ho provato... Non ho provato nessun godimento ad attribuire ai tassisti quella scritta lì. È quello che hanno fatto tu... Oscar, è quello che hanno fatto tutti i giornali, eccetera, eccetera. Hanno chiamato ieri i tuoi colleghi, convinti invece che addirittura fosse stata la stessa Uber, o addirittura la stessa signora... Ma ci possono essere dei gruppi pagati per fare queste cose. Vabbè, gruppi pagati da chi però? Pagati da chi? Da Uber, dice. Per raggiungere certi obiettivi si usano tutte le strategie. Vabbè. Io non posso dirlo con certezza, perché non ho le prove. Ci sono degli apparati di polizia, di istituzioni che andranno a indagare, e sapremo chi le ha fatti, se riusciranno a trovarli. Vabbè. Comunque il discorso è un altro, che noi fino ad oggi lavoriamo nella legalità, cosa che gli altri non sono nella legalità, eppure vengono quasi sostenuti dalle istituzioni, perché non facendo un cazzo vengono sostenuti, quando noi invece siamo qua a fare il nostro lavoro, pagando, facendo una vita di sacrifici, e ti dico che io in 5 anni per pagarmi questo cazzo di lavoro che mi sono fatto un mutuo di 20 anni, mi è venuto fuori l'emorroide, cioè l'infiammazione alla prostata, e mi hanno prescritto l'aspirina cardiotonica. Questo per dirti che godura che ho di fare il tassista. Ma quanto hai pagato la licenza? I tassisti dovresti avere un po' di umiltà e di rispetto. No, senti, non lo puoi dire a me, Oscar, non lo puoi dire a me. Ti comporti proprio come un grande cioccolino che ti piace far girare il palo. No, senti, stai tranquillo, Oscar. No, non sei tranquillo perché ti stai dicendo delle cazzate. Perché non basta il fatto che dico che sono dalla parte vostra, dico che... No, aspetta. Non basta questo, non basta. Che cosa devo fare di più? Devo sparare a Uber, Che devo fare? No, tu non devi decidere perché tu non sei in materia competente. Forse ma sarai tu incompetente. No, aspetta, forse il tuo amico Parenzo più volte ha avuto un altro modo di sensibilizzazione, perché forse ha conoscenza di più della materia. Ti dico solo una cosa, noi non siamo contro le liberalizzazioni, tanto mi devi parlare quando parli di liberalizzazioni com'è che... Vabbè, però Oscar, non ho capito che cosa vuoi. Fermati un attimo! Cosa vuoi? Cosa vuoi alla fine, Oscar? Cosa vuoi? No, voglio che vengano rispettate le regole. Ci sono delle... Va bene, d'accordo, l'abbiamo capito. Ciao, grazie. Matteo, Siracusa. Vabbè, ho capito, Oscar, basta. Matteo Milano. Ciao, Cruciani. E che cazzo? Dai, Matteo, vai. Ale. Allora, io volevo solo fare una considerazione insieme a voi sul car sharing, perché obiettivamente io sento sempre i taxisti, Uber, tutte categorie che comunque, no, Uber no, ma i taxisti se la prendono, si arrabbiano, ma porca miseria, ma io non ho capito, ma per quale motivo i taxisti per lavorare devono applicare delle tariffe che pochi si possono permettere? Beh, sono tariffe del comune quelle, Le applica il comune, sono d'accordo, tariffe. Però in tutto il mondo a me capita spesso di girare, il taxi non è un lusso, il taxi potrebbe essere utilizzato dai ragazzi, potrebbe essere utilizzato veramente in mille modi, e si fanno la guerra tra di loro quando alla fine in realtà secondo me ci potrebbe essere spazio per tutti se ci fossero delle tariffe un attimo differenti. Il car sharing, che le tariffe dei io il car sharing lo utilizzo tantissimo, ripeto tantissime volte ai tassisti che l'utilizzazione del car sharing li aiuta, perché uno non utilizza i propri mezzi, e non utilizzando i propri mezzi alla fine sceglie anche il taxi qualche volta. Mi capita spesso di utilizzare il car sharing, le aziende, ce ne sono 2-3 a Milano che fanno car sharing, e poi quando non trovo la macchina vicino chiamo il taxi, e dunque utilizzo il taxi anche nelle situazioni in cui non l'avrei utilizzato. Cioè, o uso il motorino, raramente la mia macchina, spesso il car sharing, e ogni tanto quando non trovo la macchina disponibile prendo il taxi. Perfetto, sono assolutamente d'accordo con te. Cioè, tutto però... è compatibile purché sia nella legalità. Cioè, il car sharing, certo, è una cosa legale, d'accordo. Uber opera in una situazione che è sul limite secondo molti non può fare quel servizio, perché è un servizio uguale a quello dei taxi, non è un servizio diverso, non lo chiudono, però, è un servizio uguale, non lo chiudono perché è evidente che ci sono grandi interessi, che è operante in diversi paesi, in alcuni è stato tolto. Una volta che ti inserisci è difficile chiudere direttamente un servizio, e perché la politica come al solito non si assume le sue responsabilità. Michele da Sassi. Pronto? Vai. Sì, ciao. Io volevo fare un commento su una considerazione di un ascoltatore precedente che era preoccupato che con la nuova legge elettorale potessero andare al potere partiti tipo Alba Dorada, e tu hai fatto un commento dove dicevi che neanche il PD, diciamo, potrebbe andare sempre al potere, perché in fondo diciamo, vengono fatte le elezioni, ogni volta potrebbe andare un partito diverso. Però la mia preoccupazione è, diciamo, quello che succede dopo le prime elezioni, perché se dopo le prime elezioni, con una legge elettorale come questa, il PD c'ha la maggioranza dei 2/3, perché c'ha un Senato eletto a suo favore, può tranquillamente cambiare. Allora, Michele, però io non ho capito nulla di questa roba qua. Michele, adesso qual è la tua preoccupazione? Neanche lui ha capito. Qual è la tua preoccupazione? La mia preoccupazione, spiegami. È che il PD con questa nuova legge elettorale potrebbe cambiare la Costituzione come vuole. Ma per cambiare la Costituzione ci vogliono i passaggi parlamentari, poi eventualmente anche un referendum. Insomma, non è così semplice. No, poi. Con la, col Senato così come verrebbe eletto, il PD potrebbe avere la maggioranza di 2/3, quindi... Ma 2/3 non mi sembra difficile, 2/3, comunque. Certo, il Senato se non è elettivo... No, il Senato lasciamolo perdere che non sarà più elettivo, la Camera si potrebbero avere i 2/3, sì, ma insomma ci sono molti anticorpi in Italia, non è che uno può cambiare la Costituzione da un giorno all'altro, cioè, così, sì, certo, poi se uno ha la maggioranza di 2/3 potrebbe cambiarlo anche certo, senza passare dai referendum confermativi, eccetera, eccetera, però esatto. Insomma, mi sembrano ipotesi un po' lontane. Nessuno vuole instaurare una dittatura in Italia. Si cerca di creare una situazione, secondo me, con metodi e situazioni sbagliate. Si cercano di creare, diciamo, i presupposti per un governo che prenda decisioni più rapide e che abbia più forza. Vabbè, Michele, ciao. Ciao. Ti ringrazio, ciao. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai. Questa trasmissione è massacrata. Allora andiamo a Ragusa, Roberto, vai. Sì, volevo soltanto capire una cosa. Mi ha incuriosito la vostra affermazione che voi non scorreggiate di fronte alla vostra ragazza, alla vostra moglie. Io ho detto il contrario, che a me è successo, ma quando si arriva a scorreggiare, a emettere flatulenze, se lo vogliamo dire in maniera un po' più carina, simpatica e gentile, dolce, le famose flatulenze, beh, si arriva a un punto, secondo me, di non ritorno. Cioè si arriva a un punto in cui sì, c'è grande intimità, può essere, però insomma, si arriva a un punto in cui uno, a te succede di scorreggiare davanti alla tua moglie, scusa Roberto. Gran tema questo. Ma io penso che sia una cosa normale. Ma come è normale? Cioè, tu scorreggi davanti a... Ma sei uno zozzone, fai schifo. Ma che ambienti frequentati? Ma fai schifo, fai schifo. Tu scorreggi davanti a tua moglie. Vergognati. Allora, passamela. Allora vi faccio questa domanda. No, passamela. Ritornando a casa io, scusa, sono in macchina. Ascolta, volevo allora farvi questa domanda. Ma voi la notte, mentre dormite... Sì. Che si fanno, naturalmente si fanno. Ma chi l'ha detto? Ogni tanto si fa. No, no, di notte. Ma la farai allora, tu, scorreggerai tu di notte? Io non scorreggio di notte. No? Ma sì, mi capiterà, può darsi, ma non me ne accorgo però. Cosa fai? Ti alzi? Ah, non te ne accorgo, ma lo fai allora. Ma non lo so, può darsi che succeda, ma non me ne accorgo, dunque non lo so. Ah no, io pensavo allora che voi vi alzavate durante la notte, andavate in bagno, facevate la scorreggia e poi tornavate. Beh, è possibile, anche succede, se uno li scappa si può alzare, andare in bagno e scorreggiare. Parenza aprirebbe anche un rubinetto per evitare i rumori. Io ho confessato questo, quando vado a casa sia di altri ma anche a casa mia... E vado in bagno e devo fare ad esempio la pipì o anche avere... Vabbè, apri il coso, ho capito. Sì, okay, apro l'acqua. Okay. Vabbè, Roberto, io voglio capire se tu scorreggi con la tua partner. Scorreggi davanti, scorreggi davanti. Inchiesta alla report. No, ascolta, io non sono un tipo che scorreggia di fronte agli altri così. No, ma mica di fronte agli altri, di fronte con tua moglie, scorreggi? Succede di scorreggiare davanti a tua moglie? Può succedere. Ma fai veramente orrore. Un ambiente degradante. È un orrore. Beh, sì, abbastanza, allora, lasciatelo dire. Allora... Voi siete veramente... Sono io allora strano, ecco. Sono Beh, io sì, l'unico sicuro. In Italia che sono Ma che ti dice strano. Tua moglie quando gli scorreggi davanti, scusa? Niente. Quando le niente, così. Anche lei risponde prende porta con a lo casa. Stesso risponde con un'altra scorreggia oppure... Sono io, devo andare da farmi controllare. Allora. Sì, no, deve mangiare il carbone. No, dipende, se ti tieni, sì, se ti trattiene... Non c'è... devo controllare perché sono una persona normale, perché quello che mi avete detto, allora ho capito che non sono normale. No, però scusami Roberto, se cerchi di trattenerti e alla fine metti una frase... Ma scusa, ma come fa uno a trattenersi? Non è un fatto naturale. Se uno si trattiene, poi ha mal di pancia. Scusi, poi sta come male. Il famoso ruttino. Allora, non è necessario allora, farlo con il rumore. In che ambiente è cresciuto TV. Lei? Come? No, voglio capire questo. È come il famoso ruttino, no? Non è ci sono modi per trattenerlo o per mandarlo certo, in dentro senza farlo fragoroso. Certo, se vuoi ci sono delle lezioni. Silenzioso che non si sente che nessuno si accorge. No, perché nessuno si accorge perché c'è un modo per farlo silenzioso. Ah, ho capito, è un bel trucco, vabbè, devo impararlo. Ma io non ho capito qual è la reazione di tua moglie, cioè tua moglie sente una puzza terribile e non si mette a ridere, non fa che cosa fa Roberto? Che significa cosa fa mia moglie? Cioè sente la puzza della tua scorreggia e poi? Ma chi l'ha detto che la mia scorreggia puzza innanzitutto? Ah no, le tue scorreggia non puzzano, vabbè, fiori di lotto. Non puzza, tu fai scorreggia che non puzzano. Ma comunque ho capito che... vivo in un altro mondo, ecco, sono Ma no, per carità, ma che in un altro mondo, vabbè, comunque. Questo potrebbe essere un sondaggio per Libero. I nostri amici di Libero potrebbero fare un nuovo... Voi scorreggiate davanti al vostro partner, esatto, visto di quello sì o no? Visto i temi di cui si occupano gli amici di Libero, potrebbero fare nel loro online magnifico questo sondaggio nuovo. Ecco. Voi scorreggiate... Sì. Fare una cosa in diretta, Davide, prova a fare una cosa in diretta, aspetta. Aspetta. Fermi lì tutti. La voce che ha risposto è quella di Lotito. Subito dopo era la telefonata. Aspetta che ci riproviamo. Adesso. Adesso ci riproviamo, aspetta. Vai. Sentite, aspetta. Fermi tutti, bloccate le macchine, tutto. Bloccate tutte le macchine, tutto. Orazio da Messina. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. A proposito di mariti che scorreggiano davanti alle mogli, io ho il problema inverso, mia moglie che scorreggia davanti a me in qualunque momento della giornata, anche di notte mentre dorme. Bella relazione. Ma tua moglie è una cosa incredibile, tua moglie scorreggia davanti a te in qualsiasi momento. Ma anche mentre dorme è terribile, mentre dorme, cioè è veramente squallido, cioè ti pare normale? Sì. Però tu ti arrabbi un po' per questa roba qua. Ma prima mi fa ridere, poi però un po' mi infastidisce, dai. Ti infastidisce, davvero. Cioè non ti arrabbi? No. Ma allora perché ancora ti infastidisce? Ma non può fare qualcosa, ma è malata? No, non lo so, flatulenze libere, non... Guarda, esiste il carbone, se tu vai in qualsiasi farmacia, no, dai, ragazzi, prezzo di 3 euro... Non è possibile, però facciamoci raccontare meglio, cioè in qualsiasi momento, quante scorreggie fa? Cioè, quando sta con te ogni tanto scorreggia? Sì, ma sono belle rumorose, importanti, diciamo, cioè... Io sono molto silenzioso in questo, nel senso... Ho un senso del pudore, lei proprio per niente. Ma è una cosa incredibile. Ma non hai mai pensato di lasciarla per questo, per queste scorreggie continue, no? No, non è un motivo valido per lasciarla. Beh, insomma, dai. Dipende, cioè, secondo questo sondaggio, noi siamo partiti, non è che ci siamo inventati questa storia così. Siamo partiti da un sondaggio. Non è un sondaggio di Libero, è di un giornale inglese, il Mail Online. Secondo il quale un terzo degli intervistati ha avuto una confidenza troppo veloce col partner. E il rapporto poi si è interrotto quando uno dei partner si è lasciato andare alla flatulenza. Cioè, la flatulenza, cioè la scorreggia tra i partner, porta a lasciarsi alla fine, questo è il punto fondamentale. Tu mi stai dicendo invece che tu te ne fotti, alla fine tua moglie scorreggia davanti a te come una pazza, o sbaglio? Sì, la nostra storia è breve, ancora è da 3 anni che siamo insieme. Beh, breve, ancora... breve un cazzo, beh. Scusa. Sì, infatti, ma non ho capito, beh. Ma anche quando scopate fa scorreggia? Non mi piace. No, in quel caso no, almeno, o non ci ho fatto caso perché nel rumore generale magari non... Mi piace la ricerca del dettaglio. Scusa, di ma me la passi un attimo? Perché è il dettaglio. Sì, te la passo subito. Ma veramente canta a te. Te la passo. Sì. No, ti prego. No, come sta, signora? Buonasera. Ci state coglionando, come ti chiami? Direi. No, te lo giuro, è vero. No, vabbè, tu scorreggi davanti a Orazio. Sì, non mi posso trattenere, cioè ho proprio dei problemi intestinali, non lo so. Forse dovrei andare da qualche medico, non lo so. No, ma veramente, come ti chiami? Come ti chiami? Roberta. Cioè, Roberta, tu scorreggi davanti al tuo partner di continuo. Ma può essere una dinamica di coppia ormai anche. Ma quante volte lo fai? Non ho capito, in che situazione lo fai? così, cioè, non è che lo faccio apposta. Magari dall'emozione. Ma che fai? Ti metti a ridere? Quando, ma quando ti viene l'erutto, no? Cioè, ma puzzano? Puzzano, no? No, sono discreta, almeno in questo. Almeno in questo sono discreta. Cioè, però emetti così, emetti dei rumori, diciamo, no? Dal sedere, emetti dei rumori dal sedere. Sì, senti, forti, come sono? Non lo so. Sarà che? Sarà che sono musicista, quindi non lo ma so. Ma che c'entra sei musicista? Beh, ho capito, un conto è il trombone, un conto è... Il corpo, non lo so, così. Ma anche quando fate sesso? No, questo quello no. Ma che sesso fate? Sesso normale oppure tentate qualcosa di più? Il dettaglio, gli piace il dettaglio. Okay? Vabbè, su questo dai. Dai, ormai giovane, che siamo qua, parliamo, aperta, dai. Dai, una coppia giovane, aperta, quindi aperta. Insomma, scambi, siamo cose. Artisti, quindi siamo creativi, cioè, questo sì, sicuramente, siamo creativi, ecco. Siete creativi, eh? Cioè, scambi, sì, sì, cose pazzesche. Beh, qualche scambiuccio ogni tanto, dai, in tre, sì, in quattro. Sì, di tutto, sì, di tutto. Ma veramente? Ma se, no, mi sentisse ad Inolfi, guarda. Mamma mia. Va bene, va. Le flatulenze a casa di Orazio e Roberta. Le scoregge continue. Cioè, avete provato questa... mai a portare questa testimonianza che so, cioè, da Carruba, da... Posso dire dimmi. Posso dire una cosa? Comunque, cioè... il mio amico Carruba. Sì, intreccia qualcosa di molto profondo. Cioè, le scoregge, cioè, provocano intimità, provocano intimità. Arrivi a una intimità tale, no? Da poter, sì, scoreggiare davanti al tuo partner, così, sì, senza pudore, no? Sì. Sei entrato proprio nel profondo, nell'intimo del rapporto, secondo questa me. È Radio 24. Il la sole 24 ore. Esatto. Dobbiamo parlare di cose che appartengono alla... No, dobbiamo parlare soprattutto al paese responsabile. Dobbiamo parlare al paese, paese che ce la vuole fare, alle famiglie, no, che tentano di arrivare alla fine del mese. E basta. Beh, demagogia. Sì. Basta, no, demagogia. Qui, no, demagogia. Basta demagogia. Porcheria. Ma noi in questo caso non parliamo né di demagogia né di responsabilità, bensì ti scoregge, caro, cara Roberta. Senti, io voglio capire una cosa. Quanti anni hai, Roberta? Quanti anni hai? 29 anni. E Orazio? 35 anni. Però, cioè, Roberta... la confessione di stasera di Roberta è che scoreggia tranquillamente davanti al partner e si crea una sorta di intimità. Diciamo la verità, Roberta, se queste tue scoregge puzzassero, non parleresti così. E Orazio non parlerebbe così. Sì, questo è molto probabile. Sì. Poi secondo me come fanno le scoregge a non puzzare, poi è tutto da vedere questa cosa qua. Se uno come... mangia fiori. Non lo so. Bravo. Bravo. Vabbè, ciao. Ci ciao, cara. Di amore. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Appunto. Le grandi inchieste della Zanzara. Scoreggiate insieme al vostro partner? Beh, come l'inchiesta ce la fate a finire, beh, ad arrivare alla fine del mese? Non è esattamente la stessa inchiesta, eh? È un gatto che ormai è tutto finito. Ecco, appunto. Sicuro. Andrea da Roma, vai Andrea. Ciao, dunque io mi sono sentito un po' preso in giro da, sì, il deputato Rapino per il suo intervento. Mi raccomando, allora, responsabilità, niente demagogia, responsabilità. Andrea, vai. No, quello sulla scureggia non era male, sì, come intervento. Scusami, no, però la metto in forma dubitativa perché non vorrei... Lei scoreggia con la sua parte, con sua moglie? Io no. Lei no? Io lei no, trovo una cosa schifosa. Anzi, sì, appunto, dai. Vabbè, comunque... Vabbè, de gustibus, no? Sì, sì. Vabbè, allora... Beh, Orazio mi sembrava disturbato, a dire il vero. Lei era contenta, ma... Vabbè, oh, ragazzi, ma ognuno trova la sua, il suo equilibrio, no, così. Se quei due gli vanno a scoreggiare insieme, scoreggiassero insieme. Capito, se lui sopporta le scoregge e le flatulenze di là, malate, di Roberta. Ma chiamano in due alle 20:26 la radio della Confindustria per raccontare queste porcherie. Gente malata, dai. Ma che gente malata? Gente normalissima. Ma che è normale? Ma adesso... Ma no, ma è gente normale, è il popolo. Fai, e sono episodi di vita quotidiana, di vita normale. Diventare normale cosa che non è normale. Fare la pipì senza alzare la tavoletta, fare rumori ovunque dove vai, fare rutti in mezzo alla strada, non è normale, non è normale. Vabbè, Andrea, vai. Dai, no, Andrea. D'accordo. Vabbè, scusami, allora mettiamola in forma dubitativa perché non vorrei beccarmi una querela milionaria. Sì, sì. Allora, premetto che non sono un grillino né simpatizzante dei 5 Stelle, però quando lui dice no, io volevo solo spiegare che abbiamo più risorse per il gruppo, sì, sì, sì. Ma alla fine non, cioè, possiamo assumere del personale, eccetera. Io la vedo come quei soldi vanno in tasca a te. Perché? Perché il personale dei parlamentari... Lui dice di no, lui dice che i soldi sono tutti, sono uguali per tutti, uguali per sì, tutti. Però in realtà vanno al loro gruppo, no? Vanno no al loro gruppo. Sì, esatto, ma i parlamentari poi assumono il personale con... Sì, certo, ma qualche vantaggio ci deve essere, altrimenti non gliel'avrebbe detto se non c'erano vantaggi, no? Se non c'erano vantaggi, perché gli avrebbe detto? Che cazzo no, sta a dire? lui dice che stava spiegando le modalità di passaggio ad un altro gruppo, però era un po', come dire, attirare, no, le api sul miele. Dice: guarda che qui, se passate con noi, c'è del denaro in più. Questo io ho capito. Lui dice di no. Perché se... vabbè, lui dice no, ho capito. Lui dice di no. Vabbè, ciao, io l'ho visto da così. Ciao, ciao, ciao. Matteo Siracusa, vai Matteo. Salve Cruciani. Dimmi. Innanzitutto saluto gli amici del David Parenzo Fan Club. Vabbè Matteo, vai, forza, faccia. Ok, io volevo dire che sono, diciamo che la pena per Schettino secondo me è troppo alta. Troppo alta, 16 anni, sì. Dipende, vuol dire, di che cosa sei accusato. Cioè, probabilmente sì, tu però, pensi che non ha tutte queste Schettino responsabilità, ha... però... La responsabilità di Schettino alla fine è che ha abbandonato prima la nave, però il resto, il naufragio... Pare poco a te, non lo so. Quello, la manovra, tutto. No, il naufragio, ragazzi, c'è il comandante che fa fare l'inchino, è vero che lo facevano tutti, è vero che la società ha le sue responsabilità perché non ha fermato questa cosa assurda dell'avvicinamento al giglio, ma è lui che in quel momento comandava la nave. Qualche volta è andata bene, qualche volta è andata male, se quando va male paghi, punto e basta. Certo. A me ma lui ha seguito gli ordini dei dirigenti della costa, ma sì, però. Sì, certo, era una prassi, certo, ma se tu vuoi evitare la prassi, puoi anche evitarla. Cioè, e poi comunque poi la manovra è stata fatta male, cosa, altrimenti la nave sarebbe andata a fondo, no? Certo. La guardia costiera che hanno fatto tanto i moralisti, intanto prima quando passavano nessuno diceva vabbè, niente. Ma adesso perché quando... devi, scusa, ma lei perché difende Schettino? No, ma non è un parente? Problema. No, va benissimo, magari allora, è un parente. Scusa un attimo. È un parente o no? Scusami un attimo, tu sei parente di Schettino, ma che è di Siracusa, quello è di Napoli. Che c'entra? Che può avere parenti a Siracusa? Ma no, ma che c'entra parente, dai. Allora, io voglio dire una cosa, Matteo, il punto è questo. Che dovrebbero dare 30 anni a Schettino, ma non esageriamo, cioè... Ragazzi, ha fatto morire, era il comandante di una nave in cui sono morte 30 e rotte persone, cioè più di 100 feriti, ma di che stiamo parlando? In altri posti, essere comandanti di una nave comporta degli onori, perché vieni pagato molto bene, ma anche delle grandi responsabilità. Se fai affondare una nave quella nave è affondata perché uno ha comandato una manovra, disastro colposo, ha comandato una manovra che ha portato la nave addosso a uno scoglio, ma di cosa parliamo? Cioè, è vero, poi tutti i tecnicismi, le cose, che tipo di responsabilità, che tipo di... ma quella è la storia, molto semplice. C'è il comandante di una nave che ha fatto una manovra che non si poteva fare, che probabilmente era sempre autorizzata dalle autorità, e che si è schiantato contro uno scoglio del giglio, per cui per me 16 anni per la morte di 30 rotte persone sono pochi. Amici miei, siamo al flop. Era offensivo? Era sgradevole, era disgustoso. Vuole che vada avanti? Una volta ho voluto che approvassi un concorso in cui regalava una tazza del gabinetto all'ascoltatore che produceva le feci più grosse, in onda. Immagini l'organizzazione logistica. E abbiamo con noi, caro David, beh, una persona che una volta diede scandalo sul palco di Sanremo diversi anni fa, caro David, diversi anni fa. Vabbè, ma mica è vecchio, cioè ha 65 anni, a 65 anni uno ancora è giovane. Che è all'età tua praticamente, no, tua età. Non esagerare, beh, non esagerare, no, sono 17 anni di meno, amico mio. Beh, ormai, dai. Tullio Solenghi, ciao! Eccomi, il vecchietto è pronto. No, eccomi. Che vecchietto, quale vecchietto, 65, tu amico mai. Mio. Ma poi vedo Cruciani che Cruciani si è appena operato alla prostata. No, ma non è vero, perché devi dire queste cose? Beh, ma che diciamolo mi... intanto. Ma non è vero, non mi sono affatto operato alla prostata. È impossibile verificarlo. Fai un uso eccessivo. Dicono, beh, dicono, quello dice Parenzo e dicono, ma tu, ma non è che ti sei operato tu alla prostata, no Tullio, no, per carità. No, io mi sto toccando sotto la prostata mentre lo dici, ma non mi per ora ancora no. Però non l'abbiamo chiamato, sai, per questo, che no, immagino. Non l'abbiamo chiamato per questo. Sperare, insomma. Però sai benissimo che un comico genovese che tu conosci abbastanza bene, uno abbastanza noto in Italia, che adesso si è messo a fare pure politica da un po' di tempo, Grillo, sostiene che per evitare di ammalarsi di prostata bisogna scopare tantissimo. Quello lo dice lui, ha detto in un comizio, guarda, io non c'entro niente, non c'entro niente. Sì, sì. Questa è la sua teoria. No, vabbè, pare che sì, sarà, io stimo e sono amico di Beppe, però la sapevo prima di lui questa cosa, cioè non tantissimo. Diciamo che l'uso diciamo allontana l'uso, l'uso bisogna sempre attenersi a questo prolasso dell'età. Esatto, il prolasso dell'età. Vabbè, Tullio Solenghi, inutile ve lo presento, ragazzi, adesso fa teatro. Che stai facendo adesso in teatro, Tullio? Sto facendo Amadeus, sì? la pièce teatrale da cui fu tratto il grande film di Milos Forman sulla vita di Mozart. Io per doveri, però, per ovvi motivi di prostata, faccio Salieri, quello più anziano. Quello cattivo fai. Tornando bomba. E poi però dopo, e tra una quindicina di giorni riprendo a fare il Tartufo, un altro cattivo, passo da un cattivo all'altro. Senti una cosa, ma a proposito di Sanremo, quanti Sanremo hai fatto tu? Noi abbiamo col fatti trio, sì. Due come ospiti, sì. E uno come co-conduzione. Allora, nell'89 ci fu un caso clamoroso, che è quello di Khomeini, no? Della tua imitazione di Khomeini. Però non era Sanremo quello. No, non era Sanremo, era, scusami, fantastico. Hai ragione, era fantastico, sì, mi sbaglio. A Sanremo ci fu quell'altro caso. Qual era? Fumo tacciati di mi riprendere la religione perché feci Sanremo, con la barba e col remo. Con la barba e col remo, sì. Ecco, appunto, vi riprende la religione in quel caso, e invece minacce di morte nel caso di Khomeini. Ma lo rifaresti tu, un capo religioso, beh, Maometto, quello, oppure no? Sì. Ma se non insulta nessuno, nessuna religione, non ci sarebbero problemi. Sai, allora era veramente all'acqua di rosa, perché noi facevamo un discorso. Però sei stato minacciato di morte. Sì, ci furono richiamati gli ambasciatori in Italia, però poi anni dopo Prodi ci incontrò, ci davano un premio a noi per lo spettacolo e a lui per la politica, sì. A volte le cose si confondono, allora erano ancora divise, e ci diede, e lui ci venne vicino a noi e ci disse, voi avete, il vostro sketch è stato il più costoso della storia della televisione. Perché? Perché siccome l'Iran di Khomeini doveva non so quanti miliardi di commesse all'Italia per per acquisto di materiale, per lavori fatti, stava e non voleva pagarli, stava cercando la pulce nell'orecchio per attaccarsi. Tu mi stai dicendo che com'è che fece Prodi, scusa, com'è che fece Prodi? Prodi era ministro dell'industria allora. Lui disse che venne usato anche poi, gli capitò il nostro sketch, e il nostro sketch venne usato a pretesto per non pagare alcuni debiti che aveva, ancora più offesi, allora non vi paghiamo neanche il prossimo anno, e quindi lui lo valutò come lo sketch più costoso. Più costoso della storia. Com'è della televisione. Com'è che fece Prodi che era figo? No, vabbè, ma il vostro è stato il sketch più costoso della storia della televisione, vero, c'è una cosa così, è solo accennato. Senti Tullio, ma mi dicono che sei diventato, ho letto in un'intervista al secolo XIX, che sei diventato vegetariano, forse addirittura vegano. Beh, vabbè, che male c'è. Insomma, la strada del veganesimo è più vegetariano, sì, sono diventato vegetariano. Cioè, per te, per esempio, un cacciatore, cos'è un cacciatore secondo te? È un cacciatore, uno che ammazza degli animali. Cioè, io mi sono reso conto che nel momento in cui ci sono delle alternative al cibo e alle proteine, ci si può nutrire senza ammazzare gli animali, ma perché dobbiamo ammazzare gli animali? Cioè, chi ammazza gli animali è un assassino. Non lo so, come lo definiamo chi ammazza gli animali? Tacciarli di assassini mi sembra un po' eccessivo, veramente eccessivo. Io ho avuto la folgorazione sulla via di Damasco, quando io giravo in compagnia, mi portavo sempre il mio cane Labrador. E un giorno scendemmo a un grill e e lui scese assieme a me e fu attirato dalle urla di questo camion che aveva stipati non so quanti maiali che stavano andando al macello, sì. E vidi nello sguardo del mio labrador un qualcosa che diceva ma perché loro sì e io invece ho il culo di non avere questa sfiga, no? Ma le scarpe di pelle le metti tu ad esempio per toccare un altro aspetto del... No, guarda, non ho mai usato le scarpe di pelle, quello proprio ero già in quel quindi senso, usi solo scarpe di tela praticamente. Sì, ma ho fatto anche prima di ancora del discorso etico, anche per un fatto di comodità. Cioè, gli animali e gli uomini sono sullo stesso piano? Sì, sono sullo stesso piano. Sì. Sono sullo stesso piano. È sempre un discorso di, secondo me c'è dentro sempre un po' di ipocrisia. Quando si ferma una nazione perché c'è una balena spiaggiata, no? Si fermano le nazioni, io la balena spiaggiata, Dio non è riuscito a riprendere largo, ecco. Io tonno che vengo massacrato tutti i giorni, cosa devo dire nei confronti della balena? Che ecco, esistono animali di serie A e di serie B. Ma quello non c'è dubbio. E allora, siccome prima della guerra, se dunque ti ricordo, per te i pesci non vanno ammazzati, non vanno ammazzati i pesci. Esistevano, fammi finire il concetto, scusa, esistevano degli uomini di serie A e di serie B e sappiamo che sono stato gli eccidi che sono stati compiuti ai danni degli uomini di serie B. A me mi dà un po' fastidio che ci sia ancora oggi nei confronti degli animali questo tipo di discriminazione, insomma, no? Io e te siamo cresciuti male, secondo te, col pesce, con la carne? No, siamo cresciuti in un'epoca in cui non c'era questa consapevolezza e quindi siamo cresciuti bene. Se ti faccio l'elenco dei vegetariani della storia, sono tutte persone che hanno avuto fortuna, sono diventati dei geni anche senza mangiare carne. Parlo di Leonardo Garibaldi ha fatto l'Italia da vegetariano. Però ce n'era uno tra i Garibaldi a dirgli ma come hai fatto a farla se non mangiavi carne? Gli faresti questa domanda, Garibaldi? Però scusami, no? C'era anche un signore con i baffetti che si chiama il signor Hitler vegetariano. Anche lui purtroppo certo, poi ci sono le devianze, ci sono in ogni tu dici almeno una cosa giusta, una cosa giusta l'ha fatta. Hitler era vegetariano, io non divento vegetariano. Poi ci sono, voglio dire, i folli ci sono in qualsiasi categoria, vegetariani, onnivori, di tutti. Dici una cosa giusta l'ha fatta almeno Hitler della vita, essere vegetariano. Sì, è un po' piccola rispetto a quella grave che ha fatto, diciamo che è una mosca rispetto all'elefante negativo di quello che senti, ha fatto. Senti, una cosa, a proposito di Sanremo, poi ti lasciamo, ma il comico... No, per finire il discorso, gli studiosi dicono che la Terra da qui a qualche decina d'anni o diventa vegetariana o non ce la facciamo più. Ma chi l'ha detto? Ma questo chi lo sostiene? Dai, Tullio. Che gli animali di allevamento producono 130 volte la quantità di escrementi dell'intera popolazione umana. Però, per produrre un chilo di carne sono necessari 100.000 litri d'acqua, ne bastano 200 per un chilo di frumento. Il 75%, cioè, se non diventiamo vegetariani moriamo, questa è la tua tesi. In futuro dovremo diventare vegetariani. Se no moriamo, tutti. Moriamo. Non ce la facciamo. Non ci staremo tutti. Ma tu avresti fatto quella battuta che hai sentito sul palco di Sanremo, se l'hai sentita di Siani al ragazzino un po' sovrappeso, ciccione? Ma sì, me l'hanno riferita, vabbè, è una battuta infelice, ma io credo che insomma sia stata una svista. Io sono dalla parte di Siani, perché ha fatto una semplice battuta e ho la premessa che anch'io sono dalla parte di Siani, nel senso che può succedere di fare una stronzata, come dire. Vabbè, appunto, secondo te ha fatto una stronzata. Secondo te ha fatto una stronzata allora, perché era meglio. Però dico non ne farei un caso nazionale. Vabbè. Vuol dire proprio che non si riesce, cioè quando si raschia a fondo del barile in cerca di qualcosa di cui parlare, una diciamo stronzatella di questo genere diventa lo scoop del giorno. Ecco, in questo senso Sanremo estremizza sempre tutto. In una situazione normale avrebbe potuto dire anche di peggio, passato tutto, no? Senti, un'ultima cosa, ma tu che sei genuano, sei un po' invidioso di questo presidente della Sampdoria che va a Sanremo, Ferrero, è un personaggio così istrionico, compra un sacco di giocatori, oppure non te ne fotte nulla? No, sono invidioso se compra un sacco di giocatori, a Sanremo a fare il personaggio, mi fa sorridere, ma non sono invidioso. È un personaggio un po' buffonesco, secondo te? Insomma, sì. Spesso si confonde con l'imitazione che ne fa Crozza. Lui stesso poi a volte ha fatto, mandato anche un video online dove lui fa l'imitazione. Sì. Ma è meglio avere un presidente non macchietta, cioè lo consideri un po' una macchietta, diciamo la verità. Beh, lo è, dai, lo è nei fatti. Sì, lo è, sì, sì, no, lo dico. Se da Germano siamo stati i primi noi a dire, ma dove l'avete preso? Al Muppet Show, Ferrero. Però ripeto, il discorso è sempre quello. Se poi comunque tra Eto e Eto si allena e funziona, perché dobbiamo ancora certo. metterlo all'opera, vabbè, ci sta pure la macchietta, insomma. Ma i soldi dove li prende? Dicono a Genova, dicono da altre parti. I soldi ce l'ha sul serio, secondo te? Bah. Ma sai, ci sono tutte leggende metropolitane alle sue spalle, ci sono dei finanziatori. Cioè, voi sperate che un po' i soldi non ce l'abbia, diciamo, voi genovani, cioè che sia tutto un bluff, o no? Insomma, sì, diciamo che noi stiamo lo aspettiamo dal varco, perché comunque sì, la domanda che fai tu è la prima che ci siamo fatti noi, ma poi sai, il genovese, il discorso dei soldi è appunto molto senso, vabbè, lui non è genovese, no. No, no, però dico dal punto di vista certo. di noi genuani, cioè tu dici la prima domanda che uno viene in mente è, ma dove c'è, qual è la domanda che viene in mente? In originale, ma dove c'è tutte quelle palanche? Questo è l'originale. E adesso parlando così, diciamo, super partes, è un periodo che finalmente Genova ha due squadre che come somma di punti sì, certo. no, supera Milano, insomma, siamo sempre stati lì. Non sarai mica contento del successo della Sampdoria, dai, su. Da genuano no, da genovese avere due squadre nella parte alta della classifica, ti dico che francamente mi fa piacere. Va bene, grazie. Non arrivo ad odiarli a quel punto, insomma. Va bene, ciao Tullio, ciao, presto, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Alessandra da Roma, vai Alessandra. Pronto, ciao. Dimmi. Volevo riallacciarmi al discorso della coppia di ragazzi che hanno chiamato prima. Allora che dici? Volevo contraddirti sul fatto che secondo me non è assolutamente un eventuale motivo di rottura di una storia, ma la trovo invece una manifestazione d'amore. Cioè anche tu scorreggi insieme al tuo fidanzato? Mamma mia. Assolutamente sì. Cioè scorreggiate sì, tutte e due insieme? Insieme no, insieme è un caso che capitasse insieme, però può capitare, cioè, capita, quando è, insomma, è libera. Cioè è libera, scorreggia libera tra di voi? Assolutamente sì, perché no? È una cosa incredibile, dai, su Ornella da Roma, ma tutti così, Ornella, pure lei ci ha scritto qua, Ornella, davvero anche per te è così? Ornella? Ornella? Beh, starà impegnata con sì, a scorreggiare. Luca, rumori, provincia di Udine, vai. Rumori di stomaco, ma Luca, che gente incredibile questa. Luca? Sì, ci sono, salve. Vai. Mi scusi, senta, io praticamente volevo tornare sul discorso del discorso di Lotito. Sì. E la differenza di quello che, per carità, si è permesso di dire, no, permesso anche, ha detto Parenzo, per me comunque non è un discorso privato il fatto che comunque lui chiami la diffusione della telefonata, sì, no, cioè quello registra una telefonata per i fattacci suoi, non è che sta facendo un comizio pubblico. Pronto? Secondo te che lega di A decide amore su Beretta? No, io questo non lo so perché non ci sto nella lega di A, non lo so. No, ma ti dico io, ma se non decide amore su Beretta, zero. A lunedì 18:30, ciao. Ciao. Buona zanzara a tutti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Questo non credo. Radio 24. La passione si sente.